nella diffusione della cultura scientifica e nella diffusione delle immagini. Attraverso le incisioni. È un testo capitale che ci porta appunto a questo problema della diffusione della cultura anche attraverso le immagini. Eccola qui, la prima edizione, un'edizione finto toscana, diciamo così. Togliamo questo, ecco, si vede un po' meglio. Perché è stata, questa non è il vero luogo di edizione, è stata edita a Parigi, poi con falsi luoghi di edizione perché è stata censurata e messa al bando in diversi stati. Abbiamo detto, illustrano le acquaforti dell'enciclopedia, illustrano le tecniche, le scienze, i mezzi di trasporto, l'agricoltura, le manifatture, quindi è una scienza molto, molto, una cultura molto pratica, molto laica, per niente accademica, come questa, la stampa, il torchio calcografico, e poi l'anatomia, ci sono anche le parti dell'arte, del paesaggio, del disegno, alcune parti che riguardano proprio l'estetica o il gusto, come si diceva a quell'epoca, i teatri, questo è il teatro di Torino. E poi, ecco, un'altra cosa che appare nel 600, alla fine del 600 e si sviluppa nel 700 e nell'800 sui periodici, è quello delle stampe, delle illustrazioni a partire dalle stampe satiriche, che cominciano, hanno la loro origine in Gran Bretagna, perché il regno di Gran Bretagna era una democrazia, un regno parlamentare, un regno costituzionale unico in Europa e unico che quindi permetteva una certa libertà d'opinione. C'erano due partiti che si alternavano al governo, quindi i membri del Parlamento venivano eletti da poche persone, non c'era il suffragio universale, era un suffragio molto limitato al censo e la Camera dei Lord era eletta praticamente solo dai nobili, quindi non è una democrazia universale come quelle moderne, però c'era comunque una serie di possibilità di scrivere articoli, critiche, satire su vari personaggi della vita politica dell'epoca. Questo poi, questa cosa si diffonderà moltissimo dopo il 1789, dopo la Rivoluzione Francese, durante la Rivoluzione Francese e poi dal 1793 nel Nord Europa, nei Paesi Bassi, nel 1796 quando Napoleone arriva in Italia, rovescia i vari ducati, i vari stati monarchici del Piemonte, il Regno di Sardegna appunto, i vari ducati di Modena, di Parma, il Granducato di Toscana, nel 97 arriva fino a Roma e fa il trattato con il Pontefice. Quindi le idee giacobine, le idee rivoluzionarie si diffondono rapidamente anche in Italia e si diffonde anche proprio tutta una serie di stampe satiriche antimonarchiche, antipapali, contro appunto il clero, contro gli aristocratici, e contemporaneamente negli altri paesi, tipo in Gran Bretagna, ma anche gli altri paesi dove gli aristocratici sono fuggiti incalzati dall'avanzare della rivoluzione, si cominciano a diffondere anche stampe, giornali e anche stampe satiriche contro la rivoluzione. Quindi si diffonde moltissimo la stampa periodica, la stampa quotidiana, di contenuto anche politico, e soprattutto le illustrazioni, le immagini di tipo politico. E anche questo è uno degli elementi che compongono adesso il discorso dell'informazione attuale, questo appunto della stampa satirica, ma anche del giornalismo politico, delle polemiche più o meno sociali, più o meno politiche nella stampa periodica o anche nei social networks oramai, hanno tutto origine in quest'epoca e l'uso della stampa, dell'incisione, l'acqua tinta, l'acqua forte soprattutto, che sono tecniche abbastanza veloci all'inizio, contribuiscono molto allo sviluppo di questo giornalismo politico. Prima ancora bisogna fare un passo indietro e parlare del pittore William Hogarth, che è questo, 1697-1764, un pittore inglese che lavora appunto in Inghilterra e fa una serie di dipinti di carattere morale. Lui è molto interessato sulla pittura, sulla qualità, sullo stile della pittura, e fa un trattato illustrato che si chiama The Analysis of Beauty, cioè l'analisi della bellezza, proprio destinato a diffondere i canoni, secondo lui, i canoni estetici più consoni per la pittura. E poi fa anche dei soggetti di argomento morale, fa sei serie, adesso magari ci colleghiamo con l'altro computer e lo vediamo, fa diverse serie, in particolare la carriera di una prostituta, 1733-34, che poi sono sei tele che poi dopo lui traduce anche in incisione, la carriera del libertino successivamente, e Rake's Progress questa, e poi un altro ciclo che si chiama Il matrimonio alla moda, Mariage à la mode, che lui poi traduce e fa tradurre anche in incisione. Sono dei soggetti morali che sono un po' il momento della nascita, poi vedremo delle stampe satiriche, delle illustrazioni satiriche nei giornali. Questo è un esempio della sua idea di stampa satirica morale. Queste sono due stampe messe insieme, Beer Street, la via della birra, e Gin Lane, il vicolo del gin, ovvero illustra i pericoli, diciamo, di una piaga sociale di allora, cioè l'alcolismo, soprattutto presso i più poveri, che in qualche modo sfuggivano alla miseria, alle fatiche, alla povertà attraverso l'alcol, con tutti i problemi di salute, di malattia, di disagio sociale che ne conseguivano. E qui lo fa vedere in modo molto, molto evidente, soprattutto qui Gin Lane, zuffe, tumulti, queste due povere persone che vendono a un usuraio le pentole di casa o gli strumenti del mestiere, quindi chiaramente non potranno più, questo sembra un falegname, vende una sega, si vede abbastanza, vediamo com'è qui, no, non potrà più lavorare, una madre alcolizzata che in qualche modo abbandona il figlio, lo mette in pericolo, risse, tumulti, le case che invece di costruirsi crollano, quindi proprio la società che si sbriciola a causa dell'alcol. Se vediamo, proviamo a vedere un attimo le tre serie che sono state poi tradotte anche in incisione, che vi dicevo appunto sono importanti perché Hogarth all'inizio del Settecento in qualche modo è l'iniziatore di questo filone morale nell'arte, dell'arte come intesa anche come educazione, come esempio morale, che poi troverà poi appunto degli sviluppi nelle incisioni, nelle stampe satiriche. Allora, googliamo. Thank you. Salve, ciao. Allora, ah no, ho sbagliato. Così intanto le vediamo e poi... Ecco qua, William Hogarth. Questo è lui. È interessante perché lui ha fatto nel 1734, ha fatto una petizione, diciamo una campagna politica in favore dell'approvazione di una legge a difesa, diciamo, del diritto d'autore degli artisti e degli incisori soprattutto. È la prima, è una delle prime leggi a difesa del diritto d'autore, e questo appunto perché lui era molto famoso, aveva una consistente rete di vendita con le sue stampe, quindi era un modo, come forse vi ho già detto, fin dall'inizio anche... famoso il caso di Dürer, che a Venezia all'inizio del Cinquecento aveva avuto dei problemi con le imitazioni, le copie delle sue stampe, ad esempio La vita della Vergine, che è stato copiato da Marcantonio Raimondi e che lui in qualche modo ha cercato di portare in tribunale senza successo, perché fino all'epoca moderna, fino a un secolo poco più da adesso, non c'erano leggi che difendessero il diritto d'autore, quindi gli scrittori, i disegnatori, gli artisti che pubblicavano le opere, gli editori stessi che pubblicavano le opere. Quella di Hogarth è stata una delle prime, dei primi casi di legge approvata per difendere gli autori. Allora, vediamo la serie del... ecco, la carriera di una prostituta, ovviamente, no, questo è la carriera di un libertino, ricco, ha appena ereditato, questo giovanotto si fa fare gli abiti nuovi, rifiuta però il matrimonio con la servetta che ha messo incinta e la manda via. Nella seconda è nel suo salone, circondato da musicisti, da questo sembra un fantino che ha vinto una gara in una corsa di cavalli, quindi da cortigiani, scrocconi, e lui spande allegramente. No, qui è in un bordello, è l'altro modo di spendere i soldi, no? Con le prostitute, con il gioco, c'è questa immagine tenebrosa, diciamo così, di questa sua dissipazione. Prostitute vecchie e giovani che ovviamente gli spillano soldi a tutto andare, no? A questo punto con la sua portantina e sta per essere arrestato, c'è qui anche questa sembra una serva, una modista, quindi per debiti, e ci sono ste guardie che lo stanno per arrestare per debiti, qui evidentemente ha lasciato dei debiti per qualche abito, per qualche cosa che è stata confezionata. Si sposa con una vecchia ricca cercando di riparare alle fortune che stanno cadendo, però continua a dissipare le sue sostanze al gioco e perde, evidentemente, qui se la prende col cielo o con la fortuna, con tutti, per aver perso ancora il gioco. In questo posto estremamente equivoco, ancora è incarcerato per debiti, perché a quei tempi c'era appunto la prigione per i debitori, e quindi finisce in mezzo a queste persone malate. E alla fine l'ultimo, la parabola negativa, è la morte in uno ospizio, in un manicomio, dove venivano messi appunto i malati, i poveri. C'erano questi ospizi dei poveri dove finivano, che erano praticamente, anche questa è una forma di segregazione, di incarcerazione. Quindi questo ammalato, il prigioniero per debiti, viene buttato in questo posto in mezzo a persone di ogni tipo, malati in mente e altro, dove muore miseramente senza un soldo. Qui ci sono due dammine che fanno opera di carità visitando questi infermi. E la carriera di Libertino ha avuto anche la versione grafica, vedete, in controparte. Alcune sono state fatte da lui e altre da altri incisori sui suoi disegni. Qui chiaramente sono tutte in controparte, quindi, no, questa no. Quella di prima sì. Questa anche in controparte. Quindi è chiaro che per lui l'incisione è un modo di diffondere anche questo messaggio, che voleva essere morale, sulla dissipazione di questi giovani aristocratici, o comunque sulla vita. Chiaramente c'è questa parabola che ha questo senso, appunto, una vita di dissipazione finisce presto e finisce male. Anche qui il gioco. E poi c'è questa abilità di Hogarth, che verrà presa in parte anche dai caricaturisti successivi, di costruire una sorta di mondo, nei particolari, negli oggetti, nelle scenette secondarie, perché poi c'è la scena col personaggio principale e poi è tutto attorniato dal mondo, diciamo, della città di Londra, poi in fondo, no? Tutti questi personaggi che si affollano con oggetti che poi sono anche simbolici, insomma c'è tutta una serie di cose che lui Fa vedere qua. Sì, se la troviamo, sì. Ray Proggs, Harlow Proggs, eccolo qua, sì. È il primo, è la prima scena. C'è stato un film della televisione del 2006, sarà della BBC, e un'opera nel 2013, ma forse su YouTube si trova, perché ci sono tantissimi dei programmi della BBC. Ecco qui ci sono le stampe. Allora, prima scena, protagonista Moll Hackebout arriva a Londra, porta le forbici e porta un puntaspilli, quindi cerca di fare la modista, la sartina, come succedeva anche questa, no? E qui c'è Elizabeth Needham, che evidentemente è un personaggio vero. Sì. Elizabeth Needham, una famosa mezzana e curatrice di bordelli nella Londra del XVIII secolo, evidentemente esisteva veramente. No? Questa appena arrivata con la carrozza della posta dalla provincia, piena di buone intenzioni e di belle speranze, però ragazza sola, senza aiuti e senza conoscenze, viene immediatamente acchiappata da un'anziana ed esperta, appunto mezzana, che ha tutti questi vistosi nei che coprono ovviamente le pustole o le cicatrici della sifilide. Questi, quando si vedono questi nei finti nelle stampe di Hogarth, c'è sempre questo segnale, e fa l'inizio in salita, diciamo così, amante di un ricco mercante ebreo, quindi mantenuta in un appartamento lussuoso con lo schiavetto negro, la scimmia e tutto quanto, no? Ma lei stessa è una sorta di schiavetta, di scimmia vestita. E adesso però comincia ancora, l'appartamento non c'è più, non è così bello, è una stanza affittata, ovviamente non riceve clienti in fila, non ha più un amante solo, ma è diventata prostituta. Ovviamente finisce in prigione. Ah sì, qui fa un esempio, un parallelo letterario, è il romanzo di Fielding Tom Jones. Diversi romanzi di Harry Fielding raccontano più o meno le stesse cose, che è impiegata nella battitura del lino, della canapa, che è un lavoro molto fastidioso e faticoso, le fibre di lino che vanno, o di canapa, adesso non c'è più la canapa, in Italia è vietata la coltivazione della canapa. Per un motivo, non so perché i contadini per secoli l'avevano coltivata senza pensare che si potesse anche fumare, ma comunque, vabbè. Allora, va in prigione per la prima volta. E poi... è ammalata di sifilide e si cercano delle cure, ovviamente a quei tempi non c'erano, e quindi era una malattia di decorso anche molto lungo, ma comunque che comprometteva in ogni caso irrimediabilmente il fisico ed era mortale. Quindi, nonostante le cure, quindi gli ultimi soldi vengono spesi così, e anche le stesse donne che la tengono in affitto saccheggiano le poche cose che, come succede anche nella carriera di un libertino, queste persone vengono saccheggiate da affettuari, vicini, clienti, scropponi vari, finiscono in miseria, anche perché quel poco che hanno non riescono a tenerselo. Quindi pochi soldi vengono messi per malattie, e poi ecco qui. Quindi una scena di compianto funebre, che è una specie di scena di taverna. Tutte le comari della povera morta che vengono a fare questa specie di compianto abbastanza così teatrale, e il piccolo figlio. Ma... Bussa tutte le aule, guarda qui. Là c'è, qui c'è la signora Cognato, in fondo pure. E il povero figlioletto, anche lui probabilmente già malato, comunque che erediterà l'età della sifilide, che gioca, ma più che innocente, diciamo, lui stesso in qualche modo già condannato, gioca con i vestiti, col cappuccio e il mantello della madre, già condannato comunque a una vita senza riscatto. Lo stesso curato di parroco mezzo ubriaco che rovescia il brandy, insomma è una scena decisamente, cioè anche al momento della morte non c'è nessuna possibilità di pietà per chi si rovina, chi entra in queste situazioni. Mentre il libertino è qualcosa di negativo in quanto qualcosa che lui stesso ha scelto in qualche modo, un'eredità che viene sprecata nel gioco, nei vizi, quella della carriera della prostituta in fondo in qualche modo descrive storie appunto come in Tom Jones, come in Moll Flanders, si trovano in tantissimi anche romanzi di quell'epoca o successivamente in quelli di Dickens, cioè il fatto che effettivamente le ragazze che non potevano, che non si sposassero a 16 anni, voglio dire, o che non avessero una famiglia che potesse in qualche modo dare loro delle conoscenze, dei contatti, erano esposte a questo tipo di rischi in ogni caso, o a un tipo anche di pressione da parte degli uomini che le portava facilmente a questo tipo di discesa, diciamo, di caduta, che diavolo. Sì? Pronto? Pronto? Un tasto sbagliato, per favore. Questo è il più famoso, questa serie, Il matrimonio alla moda. Anche questo è stato forse il più complesso, il più articolato come è stato dipinto e anche il più sofisticato come tipo di pittura. La storia del matrimonio alla moda, un ragazzo, un giovanotto e una moglie di buona famiglia che si sposano per convenienza sociale, per convenienza economica e con tutto quello che segue. E anche questo è un tema dei romanzi inglesi, dei romanzi anche successivi della serie di questi di Fielding, anche con Jane Austen, i sei romanzi di Jane Austen in fondo raccontano sempre questa cosa, il matrimonio d'amore che però deve combattere le differenze sociali o tutti i problemi legati all'economia, all'eredità, alla dote per tutti i ragazzi, le protagoniste di questi romanzi molto spesso sono ragazze che magari sono educate però non hanno una dote sufficiente per aspirare a un buon matrimonio, c'è sempre questa complicazione nel complesso sistema anche delle eredità del sistema inglese, per cui anche questa è una storia molto molto inglese. Allora, un matrimonio combinato, i due genitori vestiti ancora alla moda all'inizio del Settecento, questo nobile con la gotta che fa vedere l'albero genealogico, questo che sembra meno nobile però coi soldi, quindi evidentemente lui aristocratico, squattrinato, no? Nel palazzo dove abitano con tutti i quadri, gli antenati, così si può immaginare Van Dyck, pittori di questo tipo che hanno ritratto i loro antenati, la fanciulla che sembra molto meno contenta di essere sposato, con l'avvocato che fa già, un giovane avvocato che fa già l'asino con lei, qui c'è una sorta di medusa che guarda orripilata la scena, e dopo la scena successiva è il tête-à-tête, il risveglio alla mattina. il salone dove abitano questi, nel palazzo forse londinese o nella villa di campagna dove abitano questi due. Lui sembra completamente stupidito, lei un po' più pimpante, non sono probabilmente neppure andati a letto, hanno fatto una nottata di feste, un party con feste, musica, vedete un violino nella custodia, una sedia rovesciata con un libro di musica aperto, sedie, candele consumate, quindi c'è stata una festa, probabilmente hanno anche giocato. E questo è l'amministratore della famiglia, che è piuttosto preoccupato per i conti di casa. E qui c'è un po' di tutto, no? Il salone con i grandi quadri, sembrano quadri del 600, qui c'è un quadro probabilmente di qualche Venere nuda che è coperto da una tenda, un busto antico, magari ricordo di un acquisto magari di qualche viaggio a Roma, di qualche grand tour in Italia, tutta una serie di ninnoli, di cose strane, un orologio cucù in legno intagliato, insomma, questo camino dà un po' l'idea del bric-a-brac di questo matrimonio tenuto insieme in qualche modo. 3, è qui una scena che si ripete in peggio rispetto a quello di Bertino. Questa giovane fanciulla, Sartina, come la molla della carriera da prostituta, oppure una cameriera di famiglia, che evidentemente è stata messa incinta dallo spensionato gentiluomo, che viene, questa si chiama l'ispezione, il titolo, ma evidentemente non si tratta di un'ispezione, che viene portata da questo medico cerusico repellente, aiutato dalla solita mezzana ex prostituta con i famosi nei, che si vedono forse un po' meglio, vediamo un po' così, no? Forse così si vedono un po' meglio, questo tipo assolutamente, no? Ripugnante come personaggio. Ovviamente qui si tratta di non di un matrimonio ricordatore negato, ma di un aborto. E poi si continua ancora invece dall'altra parte, la parte mondana, il salon, quello che i francesi, qui si chiama la toilette, quello che in Francia si chiama il salon, cioè la conversazione, in Italia quella che si chiama la conversazione, la gentildonna che tiene salotto, che invita letterati, musicisti, quindi una serata di musica, di poesia, che in alcuni casi diventava, ci sono dei salon molto famosi a Parigi di alcune gentildonne che avevano come amiche appunto Voltaire, Diderot, i maggiori intellettuali illuministi dell'epoca, quindi poteva diventare in positivo una sorta di, come dire, di circolo letterario informale in cui anche le donne aristocratiche colte potevano provarsi come musiciste, come poetesse, dibattere anche di temi letterari o filosofici o magari un po' più defilati anche politici, oppure, e qui in questo caso Hogarth, da buon inglese, fa una critica a questa moda dei salon francesi che evidentemente è arrivata anche in Italia e in Inghilterra. Perché ci sono appunto a sinistra questo musicista, questo cantore che sembra un tenore, un sopranista castrato, uno strano personaggio forse letterato o artista, la bella padrona di casa che fa la toilette aiutata da un cicisbeo che potrebbe essere un avvocato, da come vestito, e il negretto che ride facendo vedere questa strana figura, cioè di Atteone mutato in cervo, e ovviamente con l'allusione alle corna, e anche qui il bric-a-brac degli oggetti egizi, etruschi, greci, sulle pareti dei dipinti antichi, fra cui si capisce il cos'è questo Giove e Danae, un quadro di Correggio, quindi uno degli amori di Giove, quindi l'amore, gli amori illeciti degli dèi, e qui tutto invece è una storia molto più banale da parte della gentil donna. Poi ancora la toilette, il bagno che sarebbe bagno, che cos'è il bagno? Che cosa può essere il bagno? Ah sì, il bagno sarebbe quella che in tedesco si chiama la Stube, cioè una sorta di bagno pubblico, che però era anche questa zona di incontri tra uomini e donne più o meno illeciti, quindi è il contraltare della toilette della moglie. Evidentemente qui lui incontra l'amante, la fanciulla sua amante, la quale però ha evidentemente un altro amante, nasce una rissa tra i due. Evidentemente sono due gentiluomini, perché le spade sono da gentiluomini, e questa tensione pochissimo nobile termina con una ferita mortale per lui, quindi viene ucciso al duello in questo locale equivoco, arrivano le guardie troppo tardi, e anche qui c'è tutta una rappresentazione di questo che è evidentemente una casa, un palazzetto del 500, del 600, decaduto, che poi è diventata questa sorta di locanda, di bagno pubblico. Anche qui Hogarth è incredibile nel dare tutta una serie di segnali che descrivono tutta una situazione sociale, anche di degrado economico, che per un inglese del 1750 erano evidentemente molto chiari. Noi dobbiamo un attimo leggerli un po'. Le chiavi di lettura qui sono chiaramente un salone alla moda con i quadri italiani o le anticaglie etrusche, e la moda del salotto francese. Questo subito è un flash che immediatamente per un inglese dell'epoca colpiva subito al cuore il problema delle mode di certi aristocratici, delle mode diciamo filos francesi di certi stranieri. E qui invece c'è un palazzetto di una famiglia evidentemente decaduta, che è diventato una locanda, un posto più equivoco. Quindi anche qui la decadenza di una famiglia che ha dovuto vendere questo palazzo, che poi ovviamente non è stato più rinnovato. E poi ancora la moglie, che si uccide, c'è tutta la storia. Il suo amante lì è stato, qui dice, la contessa si avvelena nel dolore e nella paura, che appunto essendo rimasta vedova non poteva più ereditare evidentemente. Qui non capisco una cosa. Giove io, questo è di Correggio. E qui dice l'amante quello che l'ha ucciso è l'amante di lei. Lì nel bagno, e poi è stato impiccato. Finale tragico, quindi senza eredità, davanti all'imminente miseria preferisce uccidersi e lascia il bambino, il quale bambino però si capisce benissimo che ha già il suo neo, quindi probabilmente ha già ereditato la sifilide, ha già le come si chiamano, le proxy, queste sorte di, come si chiamano, di tutori, di sostegni, quindi evidentemente è mezzo paralizzato o comunque nato comunque da due genitori che forse avevano entrambi la sifilide, quindi già tarato fisicamente, e quindi la fine della famiglia è già assicurata in quel senso, insomma. E credo che questo, già questo personaggio, che non capisco se è un amministratore, un notaio, un esecutore di giustizia, già gli sfila un anello dalle mani, questa che non è ancora morta, quindi c'è tutta una un crollo senza pietà della famiglia, anche questo cane macilento che ruba questa testa di maiale dal tavolo, quindi c'è proprio la fine, qui c'è lo stemma della famiglia, ma insomma si capisce che c'è proprio una catastrofe dovuta al vizio, dovuta a questo non sapersi condurre rettamente moralmente, quindi anche questo palazzo verrà venduto, verrà affidato in altre mani, diventerà un bordello, diventerà un'altra cosa, chissà. Quindi, e anche questo ha una serie a stampa, non so dove è finita, ma c'è, è quel qua, le sei stampe del mondo, con tutta il commento, perché sono delle opere molto, eccolo qua, e anche queste le affidate a degli incisori, ai migliori incisori che ci fossero sulla piazza in Inghilterra allora, e per quello lui stesso cercava in ogni modo di salvaguardare il proprio interesse come copyright. Ah, sono speculanti, infatti. Sì, sono tutti in controparte, sì. Quindi l'hanno ricavate dalla. Vediamo un po'. Ah, c'è il dono. Vediamo un po' se si è solamente se si è. Ah, bisogna toglierlo. Ah, questo non è un work, niente, non è la stessa. Il salotto, qui c'è tutto il commento, la morte causata dall'amante della moglie, e poi la morte della moglie e la fine, diciamo, della famiglia. E c'è tutto il commento. Altre stampe, abbiamo detto Gin Lane e Beer Street, e poi quali altre stampe ci sono? Dunque, questo è il suo autoritratto giovanile, no, aveva fatto un'altra serie, ecco, anche questo è una caricatura politica di un membro del Parlamento. È l'inizio della caricatura politica. Questo appunto è un bulino, questo, da un disegno di. Che succede? Ah, finalmente è arrivato. Vediamo se si può dormire, se si riesce a capire un po' meglio la tecnica. Questo dovrebbe essere così, a bordino, se non vedo. Si vede che anche lui è questo neo, quindi anche lui la si finisce. Che a quei tempi era effettivamente la malattia sociale più importante, perché appunto la prostituzione era molto comune, che gli aristocratici, ecco, sia in bulimia, che avessero amanti e non ci fosse nessuna idea, forse una cosa che facevano molto spesso all'epoca, mulino e acquaforte. Queste parti sono fatte all'acquaforte e queste invece al mulino. Con questo tipo a dir poco bambino, che è una specie di ciarlatano a tutte queste cose, ossa, pozioni, sarcofagi egizi, c'è cioè, tutto un no? Anche qui c'è tutto un mondo di eccolo qua, vedete, tutto animali essiccati, strani oggetti, scheletri, per figure imbalsamate, cose anche di strane. No? Sembrerebbe una sorta di, non dico di scienziato, ma di collezionista di cose di ogni tipo, anche di tipo etnico, e in più però questo lato assolutamente laido di fare questo mestiere. Dunque, no, ce n'era un'altra ancora, su una serie che aveva fatto successive, cioè l'industria, cioè l'ingegno e e l'ozio. Qui in questo caso sono due vite in parallelo, cioè l'apprendista industrioso che lavora, tutte e due sono apprendisti tessitori, e l'industria tessile sappiamo che alla nascita, all'inizio, all'epoca sarà lo sviluppo dell'industria tessile porterà alla nascita del mondo industriale come lo conosciamo. E c'è in questo caso sono due i personaggi, quello industrioso che lavora, che sta la domenica va in chiesa, canta, è un buon cristiano, e invece quell'altro resta fuori dalla chiesa e gioca. Il bravo tessitore alla fine viene aiutato dal padrone, l'altro se ne va, fugge, diventa marinaio con tutto quello che serve, si sposa il buon tessitore con la figlia del padrone, quindi erediterà una fabbrichetta, e l'altro ritorna dal mare. E abita poverissimo in questa baracca con col fuoco spento e tutto, con una prostituta, anche il letto rotto, cioè proprio. E poi ancora l'apprendista diventa ricco, diventa industriale, diciamo ereditando i beni del proprio padrone, e l'altro è arrestato, tradito dalla prostituta. L'industrioso diventa membro, diciamo, del tribunale cittadino e finisce per riconoscere l'amico nei guai, accusato di omicidio o qualcosa del genere. E poi la fine diventa delle due carriere. Il cattivo viene portato a Tyburn, che era il posto dove venivano impiccati i malfattori, il popolo festante che assiste allo spettacolo, mentre il buono, qui la cosa è un po' addirittura caricata, però c'era quest'idea di questa storia morale, diciamo, da insegnare a tutti, il semplice apprendista tessitore, apprendista operaio, che lavorando e sacrificandosi, comunque mantenendo una condotta sempre reversibile, finisce per diventare major, cioè Lord Major, cioè sindaco di Londra. Ovviamente qui c'è una forzatura, comunque è molto chiaro il discorso che viene fatto in queste immagini. E questo ancora, ecco, uno dei seguaci che hanno seguito l'immaginario di Hogarth e questo caricaturista Collier, dell'Inghilterra del Nord. Non ci sono molte immagini, e invece poi ce ne sono degli altri che guardiamo, e poi continueremo a guardare anche le prossime volte. Guardiamo qui. Chi è il vero continuatore di Hogarth nella caricatura inglese? È piuttosto Thomas Rowlandson, che non ha avuto la fortuna di Hogarth come pittore. Si dedica esclusivamente, nonostante avesse una formazione accademica, si dedica esclusivamente, eccolo qui, Thomas Rowlandson, si dedica esclusivamente alla caricatura politica, alla satira politica, illustrato diversi giornali. Quindi lui lavora a cavallo tra la fine del Settecento, Rowlandson, e quindi è molto più giovane di Hogarth, e tutto il periodo napoleonico e l'inizio della Restaurazione. Quindi molte delle sue immagini sono prima il Poetical Magazine, Repository of the Arts, che erano dei giornali periodici, e poi soprattutto molte delle sue stampe satiriche sono soprattutto del periodo napoleonico, quindi contro la Francia. Anche qui sono diversi membri del Parlamento messi in caricatura, non ho capito a che cosa si rivolgono, però c'è questo che fa un brindisi, qui c'è la signora che può far alzare 500 membri, può raise, quindi può tirare su, può raccogliere, può portare dalla sua parte 500 membri, con ovviamente battuta a doppio senso. Come erano fatte queste caricature? La uscita di questi periodici era quindicinale, settimanale o quindicinale. Quindi c'è uno dei problemi della produzione delle caricature all'inizio, cioè la velocità di esecuzione. Rowlandson faceva un disegno a penna, lo passava a un incisore e vedete all'acquaforte che l'incisione è abbastanza veloce, non è molto accurata, non ci sono elementi architettonici, e in alcuni casi, quindi poteva essere fatta in pochi giorni rapidamente, e in alcuni casi, come in questo, veniva acquerellata a mano e veniva venduta separatamente, quindi uno poteva comprare il acquaforte o l'acqua tinta, ecco, veniva venduta separatamente, per cui uno poteva comprare il fascicolo del giornale, oppure venivano vendute anche le stampe, ovviamente molto più care, costavano alcuni scellini, che era una cifra considerevole. Quindi Rowlandson è il primo, e soprattutto ancora più polemico, ancora più caricate le sue immagini, sono quelle di James Gillray, che non ha avuto una formazione accademica, lavora soprattutto come incisore, come disegnatore, e poi dal 1780 comincia a fare il caricaturista e usa non solamente l'acquatinta ma anche lo stipple. Lo stipple, lo vediamo subito qual è. È il puntinato che abbiamo già visto in Veneto, forse ve l'ho fatto vedere nel 500. Lo stipple è un tentativo di creare una sorta di sfumatura di disegno sfumato, che veniva altrimenti eseguito anche con l'acquatinta. Vediamo dove sta. Il reinventore, quello comunque che ha reintrodotto lo stipple, il puntinato, è Francesco Bartolozzi, eccolo qua, che era un incisore di origine fiorentina che ha lavorato quasi esclusivamente a Londra, in Inghilterra. Questo è un suo ritratto maturo. Questo è un esempio della tecnica dello stipple, di questi puntini, di questa picchiettatura sulla lastra, che dà questo effetto che si poteva fare meglio o più velocemente con appunto o l'acquatinta o con la cosiddetta maniera lapis, che è diciamo una precursore dell'attuale cera molle. Conoscete la cera molle? Sì? Ok. Che dà questo stesso effetto con una maggiore velocità di esecuzione. Ecco, questo è un esempio di lavoro a stipple, a puntinato, che però è un lavoro di pazienza, un lavoro di questa è un'altra stampa querellata, che obbliga un lavoro appunto molto preciso, molto paziente, che non è sempre quello che è necessario per l'incisore satirico, che deve in qualche modo lavorare seguendo anche l'evoluzione della vita politica. Oppure, qui siamo di nuovo a Gillray, ci sono queste due scene che ricordano un po' il discorso di Hogarth, di satira sociale. Anche qui, acquaforte unita allo stipple, ci sono due fidanzati, e questo sembra veramente quasi un romanzo di Jane Austen, una scena da un romanzo di Jane Austen, un corteggiatore con la fanciulla di buona famiglia che suona l'arpa, cantano insieme, ci sono anche qui alcuni elementi tipicamente alla Hogarth nell'arredamento che segnalano già delle cose che non funzionano. Ci sono le rose, c'è la farfalla che si specchia, ci sono i due pesciolini che giocano tra di loro, però ci sono i gatti che litigano e questa scenetta di Cupido che invece di tirare le frecce col suo arco spara un colpo di pistola ai piccioni che stanno tubando sulla loro casetta, no? Quindi ci sono degli elementi che staccano, che strappano questo quadretto idilliaco. E dopo c'è la scena successiva, dopo il matrimonio, il rovesciamento, no? Qui non c'è la caduta tragica nelle storie di Hogarth, però c'è la vita quotidiana della fanciulla che è diventata una dama, cerca lo stesso di suonare con un risultato che non sembra per niente appassionante, cane e gatto che litigano, il bambino che piange e la serva che cerca di calmarlo con una raganella. Quindi gli armonici matrimoniali sono sicuramente delle stonature più che degli armonici, quindi la vita quotidiana come appare prima e dopo il matrimonio. Anche qui i pappagallini che si danno di spalle, Cupido requiescat in pace, che dorme definitivamente, quindi l'amore, se c'è stato, è finito da tempo. E questo comunque è un'immagine di un certo gioco di satira sociale contro la moda appunto della musica, per esempio, come può essere la musica prima, l'amore prima e dopo il matrimonio, che ricorda molto questo che le stampe, che erano ancora famosissime, di Hogarth. Qui c'è una stampa satirica, Fashionable Contrast, Contrasti alla moda, 1792. La piccola scarpa della duchessa, che in qualche modo si inchina alla magnificenza dei piedi del duca. La duchessa di York, moglie del duca di York, che allora era per la sua bellezza la regina dei salon londinesi, celebrata da tutte le... il duca di York era, credo, un fratello, un cugino del re, quindi di altissimo lignaggio. Tutte le gazzette la celebravano in modo esagerato, anche soprattutto per la grazia dei suoi piedi. E Gilray prende in giro appunto la coppia ducale, ovviamente, questo in modo abbastanza, no, c'è questo riferimento abbastanza chiaro, esplicito, a questo abbraccio ducale, e da quel momento in poi, dice, da quando è apparsa questa stampa, nessuno più ha parlato dei piedini della duchessa. Dopo, nel 1809, smise di incidere perché, credo, anche lui, strassi i fili dell'alcolismo, era messo abbastanza male. Le sue caricature più famose sono contro Napoleone. Qui Napoleone, che è un piccolo nano, un piccolo pigmeo, contro Gulliver, Giorgio III d'Inghilterra, che lo studia col binocolo, col cannocchiale, come se fosse una sorta di animale strano, no? Ecco qui uno dei più perniciosi, piccoli, odiosi rettili che la natura ha mai dovuto ospitare, dovuto soffrire, che appunto strisciasse sulla superficie della terra, quindi una specie di animale esotico. Poi ancora, anche questa è molto famosa, di Gilray, anche queste sono le varianti acquerellate, nobili, il re d'Inghilterra e Napoleone che si spartiscono il mondo, mentre Napoleone si prende l'Europa e l'Inghilterra si prende gli oceani, si prende le colonie oltremare. Napoleone è sempre un nanetto impennacchiato, agitato, sempre. Ah no, questo non è il re, questo è Pitt, è il primo ministro, William Pitt, che ha questo naso all'insù, queste maniere tutte inappuntabili, però è sempre il primo ministro e quindi viene sbeffeggiato da Gilray. E poi ancora cosa abbiamo? Ecco, una tradizione di Hogarth Rolandson Gilray continua anche in altri caricaturisti, come questo che si chiamava William Charles, che era di origine scozzese ma era andato in America, e qui è una vignetta satirica contro la Gran Bretagna, contro il re d'Inghilterra, e al momento, all'inizio dell'Ottocento, in cui gli Stati Uniti sono alleati con la Francia e dichiarano guerra alla Gran Bretagna. E allora la Gran Bretagna, c'è una sorta di progetto di creare una flotta, una flottiglia da guerra che invadesse, prendesse alle spalle gli Stati Uniti d'America attraverso i grandi laghi del Canada, che allora appunto era una colonia inglese. E qui c'è John Ball, che è la caricatura dell'inglese medio, in questo caso è il re, che cuoce, fa questa, no, sforna le navi con un forno brevettato, cercando di andare in America, nei grandi laghi. E lo stesso questa scena di Charles deriva da un'altra caricatura di Gilray, di Napoleone, sempre impennacchiato, sempre agitato, che impasta e fa dei piccoli nanetti che sono i suoi principi, viceré degli stati che lui ha creato nel suo impero, che sono diventati appunto i suoi pupazzi, e il fuoco alimentato invece dai sovrani, dai re che sono stati deposti, che sono lì come delle bambole rotte che vanno nel fuoco. Ancora più tardi, questa è una stampa del 1815, quindi quasi 20 anni dopo, quando Napoleone è sconfitto, e questa è un'immagine del congresso di Vienna, dei re e dell'imperatore di Russia, di Austria e di Germania e del re d'Inghilterra che sono riuniti per il congresso di Vienna, che mettono in forno come una sorta di ratto, cioè Napoleone topazzo che viene messo in forno da questi. Quindi Hogan Rolandson Gyrrey, cioè questa dinastia dei hieroglyphics, li chiamavano allora i geroglifici, quindi nasce con loro la satira illustrata e la dissacrazione anche del potere politico. Ci sono dei casi anche esagerati, come diceva appunto Gyrrey, arriva a volte anche all'oscenità, il furore polemico arriva anche all'oscenità. Successivamente, dopo il congresso di Vienna, le caricature in Inghilterra ritornano soprattutto ai temi di politica interna, diciamo così, mentre prima con Napoleone avevano avuto modo di creare tantissime scenette, caricature contro i francesi, contro Napoleone, appunto il nanetto impennacchiato che era sempre agitato. Bisogna ritornare al 1830, qui ci sono degli errori, intanto li tolgo, quando ritorna anche in Francia un parlamento, una libertà politica, perché dal 1815, soprattutto nel decennio 1821-1830, dopo i moti del 1821, in Europa c'è stato un forte controllo della polizia, un forte controllo sui giornali, sulle esportazioni, sui passaggi anche da uno stato all'altro, perché avevano paura che appunto si potessero ripetere i moti liberali della Spagna e dell'Italia, e quindi c'è stato nei governi assoluti un fortissimo controllo politico, che si allenta. In Inghilterra no, che è sempre stato un mondo a parte, si allenta dopo il 1830 in Francia, poi dopo nel 1848 anche in altri paesi. La Caricature è un settimanale specializzato, proprio se vogliamo, del 1830, specializzato nell'illustrazione satirica, e questo titolo darà il nome definitivo anche all'arte proprio dell'illustrazione satirica, della caricatura, e quindi non saranno più geroglifici ma appunto caricature. Poi ci sarà le Charivari, le Journal pour rire, ci saranno diversi quotidiani o settimanali politici che da Philippon passeranno a Daumier, a Gavarni, ci sono diversi nomi di illustratori, incisori che sono anche appunto caricaturisti. Naturalmente il re, la corte, i reazionari, i ricchi aristocratici sono le caricature principali, come questa del re Luigi Filippo che diventa una pera. È Luigi Filippo? Sì, Luigi Filippo. Re Luigi Filippo, che ben presto diventa un simbolo, speranza di una Francia liberale, che poi si dimostra personaggio assolutamente non all'altezza della sua missione politica, e attaccato dai liberali più attivi, più accesi, e c'è questa caricatura di Philippon, di Luigi Filippo, appunto rappresentato come una pera. E questa è una copia, che poi appunto è stata pubblicata, della sua difesa che lui aveva presentato al processo, perché era stato accusato appunto di lesa maestà, dicendo che tra il vero ritratto di Luigi Filippo e una pera non c'è nessun passaggio, nessun rapporto, perché lui ha disegnato il ritratto di Luigi Filippo, poi ha disegnato un ritratto di un'altra persona che può assomigliare apparentemente al primo, un'altra che forse assomiglia a questa ma non a questa, quindi non a Luigi Filippo, e una pera che ricorda questo personaggio, quindi non questa, non questa. Quindi lui ha fatto un lavoro abbastanza così sofistico di difesa, e dicendo appunto che non c'è niente di offensivo se uno disegna delle nature morte, no? Nessuno è mai stato condannato per aver disegnato una natura morta. E questo però ovviamente è stato poi condannato, ebbe solamente una multa e fece a questa volta una grande pera con tutti i personaggi. I membri della giuria. Finiamo con questa immagine molto particolare di Richard Doyle, di un altro giornale che sarà importantissimo nell'illustrazione e nella caricatura, che è il Punch, che è un famosissimo periodico inglese che è finito poi solo nel 2002, è scomparso definitivamente. Punch è un personaggio un burattino del teatro dei burattini inglese. Punch è una contrazione di pancinello, dovrebbe essere come Pulcinella, quindi c'è una sorta di filiazione da Pulcinella a Punch con la sua moglie Betsy, che appunto si divertono a prendere a legnate tutti quanti dal loro teatrino di burattini. Dal 41, all'inizio era una sorta di imitazione dello Charivari, però ben presto si differenzia dalle riviste satiriche francesi, perché è meno caricato politicamente, meno schierato, vagamente filo monarchico, comunque non schierato politicamente, come sono molti dei giornali francesi e inglesi, e poi soprattutto non così virulento nelle sue polemiche politiche o morali, ha sempre un tono così di leggerezza, di nonchalance, di tipicamente inglese. Ci sono diversi disegnatori, questa è una caricatura però abbastanza forte, siamo al 1847, ed è una caricatura da parte degli inglesi contro gli Stati Uniti. Questo sarebbe lo zio Sam, quindi il personaggio americano per eccellenza, ancora senza la barba e i capelli bianchi, come apparirà dopo, seduto... il busto di Washington rovesciato, stravaccato su questo sedia d'ondolo, con una cassa di dollari vicino, il Texas e l'Oregon che se li ha appena messi in tasca, è il momento della guerra contro il Messico, quindi della conquista del Texas, della conquista, dell'aggressione degli Stati Uniti contro il Messico, che portarono appunto a impossessarsi del Texas, degli stati tipo l'Arizona, Nuovo Messico, la California. Quindi gli Stati Uniti nel 1947 si erano espansi fino alla costa del Pacifico, a costo di aggredire senza motivo il Messico, che era molto più debole di loro. E quindi questa è una caricatura chiaramente anti-americana. La terra della libertà, dove appunto il negro fuggiasco può essere linciato allegramente, dove c'è ancora la schiavitù che la Gran Bretagna invece stava combattendo in quegli anni, e qui si vede il commercio appunto degli schiavi, che appunto invece la Gran Bretagna stava debellando in ogni modo, la legge di repudiation, non so che cosa possa essere, risse nei saloon, sparatorie a tutto spiano, e soprattutto questa carneficina, la guerra del Messico, una guerra illegale secondo la Gran Bretagna contro il diritto internazionale, con questo demone volteggiante sopra la guerra. Cioè, quindi già in caricatura c'è tutto un po' quello che invece diventerà l'epopea del West raccontata poi dalla parte americana. È interessante vedere invece questo lato negativo. Ecco, anche qui ad esempio c'è John Bull che ha un coltello nella cintura e un revolver, un coltello da una parte e un revolver dall'altra, quindi proprio l'immagine negativa di quello che poi sarebbe diventato il, no, il mito della conquista del West, della Texas, la California, David Crockett e tutte queste cose. Quindi qui ci sono delle novità, però tecnicamente, perché queste opere, queste incisioni sono realizzate in litografia. Qui abbiamo una svolta anche proprio tecnica che permette ai giornali di aumentare le loro illustrazioni e di creare problema che appunto abbiamo detto fino all'inizio dell'Ottocento era molto pressante, di creare anche molto rapidamente degli schizzi, delle caricature per cui anche i quotidiani politici nel giro di un giorno o due potevano avere le loro immagini satiriche, mentre con l'acqua forte e con l'acqua tinta il lavoro era molto più complesso. Quindi si sviluppa un lavoro di integrazione dell'immagine o in incisione ancora in acqua forte o in incisione in legno di testa, xilografia in legno di testa, che vedremo anche la prossima volta, o in litografia, per cui i giornali saranno sempre più illustrati grazie anche all'evolversi di queste tecniche, non solamente all'evolversi poi anche delle macchine di stampa tipografica. Comunque lasciamo questo personaggio come ultimo cartoon, mentre in francese si chiama caricature, ovviamente già in inglese e in America diventa cartoon. Ok, la prossima volta ci sono, sì, il 17 ci siamo ancora. Ci vediamo ancora la prossima volta.